pena, chiaramente vi interesserà moltissimo, ma anche a raccontarvi cosa ha fatto questa scuola di musica, che ha spazi musicali autogestiti, con tutti i ragazzi che dalle loro case si sono sfiniti, sbiancati, hanno rotto i coglioni a tutti il vicinato di tutti i palazzi, sono arrivate multe che hanno dovuto pagare, adesso sono ancora più poveri di prima. Hanno comprato strumenti che non potevano comprare e quindi se volete fate una donazione a questi ragazzi, adottate anche voi un allievo. Apriamo la campagna, adotta un allievo. La musica è sacrificio, gli allievi devono impararlo da subito, mia cara. Ne dobbiamo sacrificare uno. Se voi sì, anche se sia. Va bene, allora voi da casa sceglierete, o dalla macchina o dalla cucina, sceglierete quale allievo sacrificare. Brava. O quale prendere e portarvi a casa direttamente per le vostre cene romantiche a lume di candela. A distanza sociale però. A distanza, anche qui siamo tutti a distanza sociale. Tutti lontanissimi. Tutti estremamente disinfettati sempre in maniera autogestita, disinfettati così. Quindi adesso cominciamo a presentare. Di già! No, va bene, non lo facciamo. No, vai, vai, scherzavo. M'hai mangiato? Sì, si sente. Sicuro? No, fortunatamente non lo sento. Non lo sente nessuno come questo fantastico letto di Arcella pezzata. E anche, non sento tutti i nostri animali, ma qua intorno c'è una vegetazione. Salutiamo i nostri animali, salutiamo Germano l'anatra, poi le galline, il gallo che si chiama Patrizio, bene. Poi la gallina Ivanda che si chiama come me, che si chiama come sì, te, dinosaura, e Cicci. Il nome segreto. Io volevo salutare tutti quelli che mi conoscono. No. Anche Piera, allora, della quinta B, no. E anche la mia compagna dell'asilo. E a questo proposito, amici, volevo fare un abbraccio circolare a tutti quelli del quarticciolo. Amici, vi dedichiamo le prossime canzoni. Scusate, mi è partito il mio melodico. Niente, l'abbraccio circolare, niente. Non va bene, non va più bene. Questo abbraccio di gomito. Alzate il gomito, se volete qua si può alzare il gomito. Alzatelo tutti e partiremo col primo brano di questa fantastica scuola, che è Colors dei Black Pumas, felicemente interpretato da questo splendore di orchestra, da Matteo, Anita, Silvano, Virginia, Gabriele e Suano, che vi fanno e vanno. Vanno? Baby blue just like a reason. I give it off to the ground, see the lift back down. It's brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I work the eye of a side about a tree. Buy a mirror for green, for about a mile. Oh, bravi! Con Cole. Benvenuti dall'Estonia, erano vero? Dall'Estonia il gruppo... centrale! Bentornati all'Eurofestival! E qui no. Con Colors hanno sbaragliato tutto i nostri amici del laboratorio di MD, musica d'insieme condotto dal fantastico maestro Antonio, qui presente, non lo vedete ma c'è un grandissimo fantasma. Dov'è lei. Antonio? Antonio è più giù, ma dopo seconda gli, stella dopo, a destra. Dopo gli parliamo? Dopo gli parliamo un po' negli orecchi, così come stiamo facendo a tutti, molestandoli. Magari qualcuno andrà a sbattere da qualche parte, ne abbiamo la colpa di incidenti che non sappiamo, ma che ce ne frega. E il prossimo brano... Dimmi, io non so nulla, la scaletta c'era solo tu, io quindi improvviso. Tu sali, tieni, do la scaletta. No, non fa niente, voglio salire. È un brano pirandelliano dei famosi Eifu Fighters. Fighters. È così. Il Foo Fighters. Ed è The Pretender, cantato amabilmente da... Chi lo fa? Conduce. Silvano, Giuseppe e Anita Squarciagola. Dirige l'orchestra Giuseppe Vesticchio, suono Vesticchio, a cui va un grandissimo applauso, perché se siamo anche qui non è per un grandissimo lavoro. È tutta colpa sua. Di suono in questo CSOA e partiamo con The Pretender. What if I say I'm not like the others? What if I say I'm not just another one to blame? You gotta pretend, what if I say you'll never forget? sono meglio dei Foo Fighters, ma che I Foo Fighters, infatti, ora ci sono loro. Oggi sono gli E-Fighters. Gli E-Fighters. Sono Fighters. Sono vicini a Silvano Giuseppe Anitta. 0,5. Insomma, vi volevo ricordare un attimo che lo sponsor che questa diretta è offerta da... Bene. Grandissimo sponsor. Sì, come sempre. È utile per qualsiasi occasione. Lui ci sponsorizza matrimoni sempre. Tipo, vuoi venire al matrimonio? Certo, io ho offerto da... Vuoi uscire con me? Ma mi accompagni un attimo al centro commerciale? Sì. Come? Non te l'aspettavi, no, vero? No, perché mi seduce un po' troppo, non sono abituata a questa seduzione. Senti, ma quindi mo andiamo a casa? Ma no, ma tocca a me! No? Tocca a me annunciare! Io ormai volevo venire a casa tua! Niente, ormai... Beh, basta con lo sponsor! Bambini, per i bambini lo fai... Sì, un attimino, ma ci sarà un prossimo brano. Sì, per i prossimi concorrenti in gara? Per i prossimi concorrenti in gara di fatto. Sì. Vengono dal Nepal e loro sono... Aspetta che devo... Virg, Giuseppe questa è una trasliterazione dall'aramaico antico. Viola e Betta. E ci propongono un pezzo dei The Kinks. Ed è You Really Got Me. Prego, orchestra. Dai, orchestra! Aia! Però c'è un piccolo... Questo brano forse a quest'ora non fa bene alla salute. Perché? Non lo so, io ho un po' di mal di stomaco, dici che adesso... Beviamoci sopra. Beviamo un po' sopra. You Really Got Me, che sa che... No, aspetta, no, vabbè, così. Comunque, possiamo nel frattempo informare tutto il nostro carissimo pubblico che questo spazio di spazi musicali autogestiti che sta facendo il direttone, con questa O chiusissima, capirete che sono bergamasca, e offre... Ti sei fatto male? Ogni volta che fai una vocale mi si rompe un timpano, tesoro. Ti apro tutte le vocali. Come te apro le vocali io, mamma mia, come te apro le vocali. Comunque, ci sono i corsi di... Brava. Caffè con la macchinetta. Come caffè con la macchinetta? Frittata col mini pimer. No, poi... dai, vedo che ti ha fatto bene la quarantena. Ma tu che hai fatto in questa quarantena, d'amore? Ma secondo me il batterista che ha fatto frittate. Cioè il batterista del gruppo Pallenasse lo fa frittate tutto il tempo. Un po' di frittate. Eccolo che è arrivato. Te l'ho detto perché c'era l'ultimo componente della band del Nepal che doveva arrivare. Ah, era atterrato adesso? Sì, è atterrato adesso. Direttamente Giuseppe, allora... diciamolo che è arrivato dal Nepal. Allora, ricominciamo. Allora, io li ripresento. Okay. Veramente. Sì, loro sono Giuseppe Virg Viola. Virginia, c'è scritto Virg. Virginia Radio, qua siamo. Io sono una professionista, c'è scritto Virg e io leggo Virg. Beh, ma lasciati all'energia della vibrazione della libera interpretazione che è dentro di te. Anche quello è dentro di te. I nostri amici, purtroppo in questo momento niente, no. Quindi ci presentano un brano dei The Kinks. You Really Got Me! I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. see. Don't ever set me free. I always wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I can sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can sleep at night. You really got me. You really got me. You really. Teniamo a precisare che nessuna prova è stata fatta. Meglio da Roma, regà, meglio del gol da Roma. Comunque nessuna prova è stata fatta in presenza per evitare contagi. E nessun animale è stato seviziato per fare questa diretta, ci teniamo a precisarlo. Una diretta estremamente vegana. Priva di lattosio. La vega, scusa, io sto. Ti sei distratto? Sì, mi sono distratto perché sto, guarda, perché ho scaricato questo. Sì, hanno partecipato dal Nepal Giuseppe, Virgilio, Viola, beh! Sempre queste manie di grandezza, questo plurale a maiestatis dei tuoi cori. Ecco qua, fa bene alla salute. Ascoltare musica fa bene alla salute. Infatti li ascolterete dell'altra, mica questo. Succederà di nuovo. Allora, cambio di palco, i nostri tecnici sono velocissimi, stanno cambiando, vediamo, poi fateci un gesto. Io nemmeno li vedo. Nemmeno veloci, io. Vedono, ecco. Neanche io sto improvvisando, immagino che stiano facendo qualcosa. Nel frattempo, sì? Il prossimo brano lo vuoi cantare tu? No. Come no? Dato che prove non ne abbiamo fatte. Ah, devo cantare io? Pure tu. Se vuoi lo puoi cantare anche tu. Allora no, io ho un brano che si chiama Bastag, che ormai è vecchio, dell'anno scorso. Yeah, basta, così basta. Bastag, che è un po' mazzurca, vecchio. Mazzurca, no, è un po' francese. È techno, tesoro. Techno, sì. No, io queste cose mi fanno male. Allora guarda, ecco la squadra dei tecnici che è partita, sta andando lì alla... I tecnici... Alla riscossa del tecnico! E cavalcano i loro strumenti, meglio di una qualsiasi cavalleria. Adesso Silvano, Giuseppe, Francesco e Viola. Un brano di un gruppo che non avete mai sentito finora, nemmeno in questa diretta. Indovinate? Indovinate? Il 5 maggio. No. Ehi fu? No. Pfizer. No, ebbene sì, fu Pfizer. E quanto ci hanno marciato sulla vellaccia del povero Carson, non si sa. Cioè, gli è andata così bene che quello è morto, ragazzi. Che noi li celebriamo. E quindi, play! Che canzone? Play, questa canzone che è autografa. Ah, oh, Learn to Fly. Learn to Fly. Che spiccata. I learn to fly. I learn. Esatto, questa è la dedica. Per chi volesse fare delle dediche, può dedicare qualsiasi sì. brano a chiunque. Sì, e ci penso io. Datemi solo il nome della persona a cui... sono pronti, vai. Ma sono pronti, prontissimi. Allora lanciamo un bel play AMD. Thank you. Radio Forte Prenestino, la direttona, il direttone. Solo musica italiana, solo musica italiana. Aspetta, no, non ho il pulsante. Solo musica italiana. Italiana. Evviva! Musica libera, persona, fresca come noi. Bravissimi, ci avete fatto volare. Alto, non direi incredibile, ragazzi. Sembra il Papa. Sei dileiata. Quando è andato da solo durante la quarantena di Abelio. Allora, comunque bravissimi Silvano, Jus, Viola e Franch. Bravissimi. Io gliela dedicherei. Io ve la dedico questa canzone che avete suonato. Ve la dedico. E la prossima, però dobbiamo stare un po' calmini. Tu sei calma? Io calmissima, pure troppo. Più, troppo? Abbiamo questo Seven Nation incontro di rugby in diretta. Infatti preparate i cori da stadio, perché il pop pop po che tutti avete sempre cantato. Siete dei tamarri incontenibili. La ninna nanna dei Totti è questa, fai conto? Cioè, è proprio la sua ninna nanna. È questo pop pop po, pop po, pop po. Di Wildstyle, lo faccio un po' più forte. Secondo me riesco nella mia impresa di spaccare il timpano a qualcuno che accidentalmente non solo quelli, non solo quelli. E il prossimo brano sarà egregiamente interpretato da Giuseppe, Virginia, Anita e Julie con Seven Nation Army. Alla loro postazione lanciamo questo play AMD. A me non sono più. Sento le voci. Ci siete? Quando che... comincio a sentire le voci, che figo, il bello della diretta. È bellissimo questa diretta cosa. Diretta su Cuba, famosissimi. I belli della diretta. Dai! La diretta sono loro, i più belli, i grandissimi. Nel frattempo, in questa scuola di musica, che cosa si insegna veramente? Tu lo sai. Lo fai apposta, no, no. Ma in... Ah, allora si insegna canto. Che fa dimagrire, sì, a tutti. Si insegna a usare bene gli strumenti. Poi dice, tocca a voi decidere quale strumento. C'è il basso, c'è l'alto. C'è l'alto, c'è il medio. Siamo pessimi. No, la mia, io, allora, ufficialmente, se volete proprio fare un po' di reality, io sono al 13%. Siamo situazioni rischiosissime. Qualcuno salvi Wanda con un caricabatterie. Sono al 13%. Sono provati questi ragazzi. Provati adesso, ma prima no, molto provati. Si vede la fatica. Ho perso tutti gli effetti speciali. Ora li vado a cercare. Gli effetti speciali, sì. I congiunti come stanno? I miei congiunti stanno benissimo. C'è stata una diaspora durante questa quarantena dei miei congiunti, no? Quindi erano troppo distanti, così non so. No, grazie, ma scherzavo, che carini, hanno portato davvero un caricabatterie. Ma che figo, ma fare la presentatrice della radio serve a qualcosa. Io vorrei 2000 euro, vengono qua con 2000 euro. Arrivano. Adottate uno speaker, che speaker è pure di me, adottatelo. E andiamo con po, play per musica MD, musica d'insieme, di spazi musicali autogestiti. A Seven Nation Army, could you hold me back? Back and forth to my mind behind a cigarette, and a message coming from my heart saying, "Leave it alone, leave it alone." Bravi, bravi, chi erano questi? Erano Giuseppe, Virginia, Anita e Giuli. Che bravi. Vabbè, non sa fa, a quanto pare non sa fare solo il tiramisù, cari. Sa fare anche po. Aia. Per la causa. Comunque, continua il direttore di Paperone, che sostituisce in realtà il saggio. Questo è il saggio della scuola di musica virtù. Surroga virtuale, fantastico. Surrogato! Ma tu ci sei nata con questa voce oprete la sei comprata? Maledetta. Non mi hanno ascoltato. Sono proprio tu a presentare anche la prossima canzone. Però adesso torno a chiamare. No, perché? Polmonare. No, perché sei adorabile. Questa è la serie dei brani che potete cantare da casa, insomma, vi abbiamo pensato. Vabbè, tu lo sai, quello su, quel messo di bravo. Questi sono i brani da cantare comodamente dal divano, che avete sicuramente ascoltato, probabilmente da nonna, zia, il fidanzato, no, forse non me l'ha dedicato mai. Lo suoneranno! Vai, io sto cercando il suono adatto. Ormai mi hanno lasciato da sola. No, sto qua, sto cercando il suono adatto per questo. Suono. No, ho sbagliato, non era buono. Wow, che bello strano. Ma chi non l'ha fatto? È bravissima, lei sta rollando una sigaretta, sta prendendo la birra e sta facendo la speakers. È una sigaretta. Perché sono femmina. Sei bravissima. Del ruolo. Un lancio. Ridillo. Sono sperimentazioni acustiche. Che cosa sei tu? Che cosa sei tu? Hai detto? Hai detto che l'hai detto prima, sono là. Qua la memoria breve non me la sono avanzata negli anni, la memoria cazzate. Ringraziamo insomma Maurino alla regia. Sì, Maurino, il regista incredibile e anche tutto lo staff. Ho trovato questo rumore, è bellissimo, senti. Che girano, per lo staff di Spazi Musicali e del Forte Prenestino anche, coloro i quali l'enoteca, vai, coloro i quali l'enoteca, esatto, no. Questo è quello, scusate, che succede dopo, no, che è venuto il vino, ci succede questo. Ringraziamo partito, tutto lo staff tecnico, quelli che ci hanno aiutato a montare tutta questa direttore incredibile, e il prossimo brano... Ringraziamo Giubecca. Sei amici del gallo, l'anatra. Dai, prossimo brano, andiamo al prossimo brano. Nella vecchia fattoria. Come? Ia. Nella vecchia fattoria, interpretato da Silvano, Virginia, Giuseppe, Emanuela. Ma non c'è scritto un'altra cosa lì? Ma dove? C'è scritto Obtdiadi. Ma questo è un linguaggio cruciato. Obtdiadi. Coniato da un gruppo massonico di musicisti chiamati The Beatles, e brano lo facciamo partire così, senza colpo ferire. Play! Hanno avuto il coraggio di sputtanare tutta la vita privata di Molly e Desmond e ci hanno raccontato sì? Tutti. Molly e Desmond? Non è un programma culturale questo, non capisco di che cosa stai parlando. Ma è Pierangelo. Ero cambiato sesso. Adesso sono Angela Piero. Ora sei Angela Piero, grandissimo. Sì, insomma, questi Molly e Desmond hanno fatto la fattoria. Molly si allena tirando i rigori. Desmond si allega, parando i rigori, si allega. Puoi allegare. Allegami. Anche Desmond. Allegami. Oddio, senti che vocione che mi è venuta la radiofonica. È una voce bellissima. Ciao, sono Oreo. Sono Oreo, il DJ radiofonico. Parlami come vento tra gli alberi. Perché c'è la ringa. Se non hai un nome di biscotto, non puoi fare il DJ radiofonico come Ringo. Oreo mi chiamo. Oreo. Oreo, che sei bello. Sono Oreo. Ti piace, sono Oreo. Direttore, continua. Inesorabilmente in maniera coraggiosissima per il prossimo brano degli Offspring. Io sto cercando sempre i pulsantini. Ma dove li stai cercando? Nel prato. Giovanni è andato un attimo a cercare i pulsantini nel prato. Se volete potete fare una gita virtuale con noi al Forte Prenestino. Se fosse qui vedreste un sacco di cavi annodati, un sacco di bellissima gente. Niente, questo non funziona, questo pulsantino. No. È il prossimo brano. È questo. Ancora, ma siete fissati con le mosche? Prima Baby Can Fly, poi c'è quest'altra Fly. Poi fanno I Baby Can Fly. E allora, l'Eurofestival 2020. Dalla Tanzania abbiamo con Silv, perché era difficile scrivere il nome. Silvana. Ah, si chiama Silv, non è un brutto nome. Silv Bessa, Virg. C'è scritto Virg e io leggo Virg. E che a scuola ho imparato solo a scrivere metà nome. Silv Bessa, Virg, Anita, Francesco. Ci preparano Pretty Fly degli Offspring. Con un doppio salto mortale cambiato, dai! E non sono pronti, ovviamente. Non sono pronti. Sì. Diciamo, bravi, è stata bellissima, una delle bellissima, brevemente è finito il brano, ma che bravi. Allora vi ricordo che questo brano è sempre offerto da, non funziona più, mi è partita la regia, okay. Non... bravi, vabbè, il direttore senza questi svistone non era un direttore. Uno, due, tre, via! Gunther Gieben, Glauben, Globen. Ricordo che questa diretta è offerta da No, non mi va, che figura di merda. Uffa, non mi funziona più l'applicazione sto cazzo. Non ti funziona più. Ci teniamo a precisare che questo brano è stato femminilizzato, perché era Pretty Fly for a White Guy, invece è diventato For a White Girl. Pretty Fly for the White Girl. Ma di che chiaramente parla? Chiaramente non l'hai capito. Non l'ho mai capita, non so di cosa parla, se tu la sai. Di una mosca bianca. Ok. È chiaramente la storia di una mosca bianca che è stata traumatizzata quando era piccola, era palestata. Sì. E poi ha continuato a volare con un'ala sola, curata e protetta dal WWF, WWF per le mosche. E il prossimo brano narra una storia di supereroi, che qua sono anche supereroi, ragazzi, che non sono quelli che avete letto da tutti i vostri fumetti preferiti, ma sono degli eroi nuovi, gli Ukulangers. You cool angels. No angels, no. Quelle sono le Charlie's Angels. Luculangels, come gli angeli del culo. The cool angels, gli angeli del culo. Gli bravi! Angeli del culo. Ah, no, gli angeli del culo. Tanti sono protettori da pregare quando tipo cercate parcheggio. Aspetta, se state in centro. E che cosa ci cantano? No, cantano, suonano la loro sigla. Sigla, c'è uno che compare su Gizzi e non so chi è. Ciao amico. Si agitano delle mani, agitano, anche noi ci agitiamo. Ciao con amico delle mani, che eh? Sei online. Mettiamo le mani su, mani giù, qua c'è il momento accordatura. Accordatura come le orchestre, non senti okay. Questo sapore orchestrale di fondo? Sì, sento proprio qua. Senti, basso. Anzi, di qua dietro il collo. Anzi, chiudi la finestra che c'è questo sapore che mi sta passando qui proprio, poi mi viene il torcicollo. No, poi non puoi starnutire, te lo dico. È vietato starnutire, manco qua niente. Post corona la starnuto è una cosa che per noi se non si può più stare. Perversione dello starnuto, ragazzi. Incredibile perversione in questa direttona! Che è offerto da non vedeva l'ora, non vedeva l'ora, anche voi da casa. Quindi, brano. Siete pronti lì? Siete pronti, amici? Fateci segno. Sto parlando do Brasile. Si fanno sì, si fanno sì. Si fanno sì col gomito sinistro, sono pronti. I nostri fantastici Ukulangers, i supereroi di spazi musicali autogestiti al Forte Prenestino. Che classe! Siamo atterrati a Piazza d'Armi, Ukulangers! La diretta di spazi musicali autogestiti termina con questo così. Brano. Come così? Così. Qua ci possiamo stare solo io e te. Ti vuoi chiamare uno per uno? Facciamo l'appello. Intanto un applausone a Suonone! Illuminosissimo! Fortissimo! Con la coda più arruffata del pianeta è lui, Suonone! Miglior amico di Iron Man, per chi non lo sapesse, lui è il suo miglior amico. Un amico ricco fa sempre presentiamo comodo. Presentiamo tutti gli allievi che hanno partecipato, quindi move esorbite l'appello. Chi c'è, chi non c'è, non c'è, vi metto pure la nota. Matteo, Anita, Silvano, Virginia, Cabella, Suano, Francesca, Giulli. Poi abbiamo Anita, Angie, Viola, Betta. Chi mi sta di Emanuela? E tipo i sette nani. Penso che io ho fatto i Giuseppi, due Giuseppi per due, che si sono proprio esibiti qua davanti a noi in maniera segreta e occultati alla vostra vista, ma non alle vostre orecchie. E la direttona però continua. Sì, in che modo? Continua. Dalla mia stanzetta? No, dalla tua stanzetta no. Niente. Tu potresti presentare i maestri della scuola, ma non gliene frega niente, quindi li presento sempre io, che sono Damiano, Daniel, Riccardo. Abbiamo un collegamento dagli Stati Uniti. Due? Due really? Dagli Stati Uniti, sì? Really? Così pare, oppure sono dei fan, dei chiacchieroni. Forse diceva state uniti, allora, anche nel momento del bisogno, state uniti. No, non è così. No. Va niente, bene, niente, assolutamente. Mi hanno censurato queste cose. Va bene, quindi allora gli amici del corso sono tutti. Nessuno vuole venire a fare un saluto de... voi del corso, allievi, volete venire a fare un saluto? Sono di una ai cani rimasti a casa, ai cani sfiancati della quarantena, sempre a passeggio. Come sei poetica? Molto, un poetica un po' bedica. Va bene, quindi la diretta finisce adesso, cioè posso andare oppure continua? Non dobbiamo stare ancora qui a parlare cosa. Io a me mi piace stare vicina, vicina. Si è conclusa comunque questo grandissimo esperimento sociale del disagio che non c'è stato il nostro giorno del saggio con questa fantastica il disagio. C'era il disagio, c'è stato il fino disagio. A quest'inverno della scuola di spazi musicali. Ma non è vero, siete stati bravissimi! Qui al CSO fronte prenestino. Siamo andati a combattere al fronte prenestino. Grandi. L'abbiamo annesso a che cosa? Stiamo a giocare a Risico qua un attimo, c'è una partita in corso. Comunque no, ma qua pare che Serena si è fatta tutta la striscia del Treccia prima di venire in diretta. Ma tutto, tutto. Sentila come super slim. Fumeggiante, era il programma prima di noi. Slim. Prima della diretta del programma La striscia del Treccia era una simpatica citazione. Comunque per chi volesse disturbare i vicini. Ma mi, abbassate la cuffia. Per chi volesse continuare a disturbare i vicini. Qui ci sono i corsi di canto. Batteria con Damiano, Daniele, pianoforte con Daniel. Chitarra ne potete scegliere un sacco con Rado, Mirko, Riccardo, chi vi piace di più. Poi abbiamo basso e musica d'insieme, cioè quello che avete appena sentito con Antonio Coronato. Poi canto con Stefano Latteri e Ugo. E te, Ugo, che sei io? Io sono Ugo. E Ugo che sono io. E Ugo che è lei. E poi... E questi sono tutti i corsi pratici, quelli orali li fate con i Wanda. Ah, no, quelli no! Non che la ti pare! Non era proprio il momento di infilare i più piccoli in questo momento. Non abbiamo detto niente. Sono i corsi per i più piccoli bambini miei, che sono? Che sono? Che ne so io? Bambini che sei tu? Riccardo! Riccardo fa i corsi per i nostri piccoli gnomi. Fai, Riccardo? Non è lui Riccardo. Ma quanti Riccardi ci abbiamo? Ma siamo ricchissimi, pieni ricchi di Riccardi. Pienissimi di Riccardi. Vengo benissimo in cam, aspetta. Però se abbiamo adibito questo spazio alle lestine all'aperto, tu le hai viste in un parco, così bellissimo. Come si fanno qua, niente. Fintistichi. Cioè, durante la quarantena siete stati bravissimi a fare i vostri corsi online, cioè adesso li facciamo in sicurezza all'aperto. Come questo, come questo live, che comunque... Sì, è venuto pure Burioni. Siamo praticamente... Vabbè, a documentare. Siamo quattro e occupiamo 32 metri quadri, mille metri quadri. Quindi siamo... Ah, cioè dalla regia fanno così. Dalla regia vogliono inserirsi, vieni, si inseriscono. Parlati. Niente, io volevamo ringraziare i maestri che si sono impegnati tantissimo e anche Radio Forte, i meravigliosi presentatori e presentatore di questa che allieva modello, mamma mia che allieva modello! Prendete tutti da lei! No, chi è lei? Anita o Virg? No, lei è Julie. È Julie. Ah, eccola, Julie è qui. È Julie. Eccola, brava. Evviva! Applaudiamo Julie anche, che è venuta qua a intervenire. Bravi, beh, meno male, che poi vogliono fare, si vergognano di venire al microfono, poi vogliono fare i musicisti. Brava, Julie. Vabbè, ma già hanno fatto un sacco di cose, quante cose gli posso fare? Vabbè, ma il musicista questo deve fare. Poi se non avete imparare lo strumento. Il musicista lo strumento. È un prostituto, così deve stare lì in strada, si deve esporre, si deve dare, è fatto così, non devono certo. Avere paura, timore. Noi dobbiamo risuonare bravi. Con gli altri, bravi. Negli altri, per gli altri. Per negli altri. Non ti imbarazzare quando ti dico queste cose, però non puoi reagire. Ma non mi imbarazzo, è che mi eccito. Oh mamma mia. Mi eccito. Oh mamma mia. Quindi possiamo dichiarare formalmente conclusa questa sessione musicale live. Grande esperimento per carino tutti. Carino l'esperimento del direttore di Paperone. Direttore di Paperone numero uno. Numero uno. Allora, quindi da Serena e Wanda delle Tripline. Serena, virgola, sei dai Wanda. Dai Wanda, sì, che sì, sai prima. È terribile, prima, mentre è venuta Giulia a dire una cosa, io avevo una battuta pronta, ma sono scordata. Sempre il fatto della memoria a breve termine si disperde nell'etere. Avremmo chiuso la diretta con una cosa esplosiva, ma invece non la chiuderemo in maniera triste. E chiudiamo piangendo, adesso è il momento delle lacrime. Ringraziamo Maurizi, qui, il nostro tecnico qua. Maurellos! Che è gonfiabile, che c'è. Maurello, il nostro mixer Cyber gonfiabile. No, adesso quando non ci serve più, c'è una valvola qui su dato la gira, si gonfia, lo... sì. Lui è e lo rimettiamo dentro la cosa. Oh, evviva! Pop Maurice! Posso smettere? No, devi continuare. Mi scappa la cacca. Non puoi andare, è vietato. Cioè, stai dicendo che questa diretta ti ha fatto cagare? No. Siamo qua da un'ora a parlare a Mickey e tu dici che la diretta ti fa vabbè, cagare. Vabbè, ma io se volete vi faccio anche basta live, ma non abbiamo la musica delle cose. La canzone della tua infanzia. Non è della mia infanzia. Allora, una della mia infanzia mi piaceva quella di Veriuva. La ricordi Riuva? No. Riuva, ragazzo senza età. Mi faceva la prima storia, faceva un mondo ostile che a tutti quanti paura fa. Mamma. Solo un ragazzo va. E Riu, grande Riu. Grande Riu! Sì, questa è una delle mie canzoni preferite. Vediamo questi dinosauri grandissimi, Ryu che scappava. Ma possiamo smettere questa diretta agonizzante? Vogliamo oppure dobbiamo questa continuare? Diretta? Non lo so, possiamo continuare con oscurezza, che fa sempre odio. No, come possiamo starnutire adesso? Io non capisco. Allora è fighissimo, mi fanno tutti i gesti da lontano. Ah, la famosa, ma è una perculata la diretta degli Stati Uniti o davvero? Ma dai! Dai che c'è davvero, a brevissimo, la diretta degli Stati Uniti lanciata! Sarà la diretta dagli States! Direttone! Ma Big chi c'è, Trump? The Big One Pirate! Chi c'è, Trampone? Ciao! Gift store.